in primo piano. In realtà sono le primarie però che hanno tenuto banco ieri, soprattutto in Puglia, per la scelta del candidato alla Regione Puglia del centro-sinistra. La vittoria di Vendola, Puglia, Vendola travolge il PD, questo è il Corriere della Sera, battuto alle primarie il candidato di D'Alema, vale a dire Boccia. Vendola vince la sfida del PD per Repubblica, trionfa Vendola, il PD si spacca per La Stampa. Primarie, Vendola in vantaggio, il Messaggero, forse era la prima edizione. Schiaffone a Bersani, questo è il titolo del giornale, si riferisce appunto alla vittoria di Vendola. L'apertura del Sole 24 Ore, poi la vedremo, del lunedì, è dedicata ai mutui, i costi nascosti dei nuovi mutui. Ma partiamo proprio, è la notizia politica del giorno, erano candidati Vendola, vale a dire l'attuale governatore, e Boccia, che era il candidato voluto soprattutto da D'Alema. Ha vinto Vendola alle primarie e, come abbiamo sentito, già si parla addirittura con termini di crisi all'interno del PD. Vendola travolge il PD, questa è l'apertura del Corriere della Sera. D'Alema a pagina 3 dice: hanno lavorato contro di me, l'amarezza dell'ex premier è come se una squadra tifasse per gli avversari. E difatti, voglio dire, basta andare su Repubblica a vedere che cosa dice la presidente del PD, Rosy Bindi, in un'intervista a Carmelo Lo Papa: abbiamo vinto perché le primarie sono state un successo. Detto questo, il Partito Democratico avrebbe potuto già da prima sostenere Nichi Vendola. Era meglio scegliere subito Nichi. Nel PD serve una riflessione generale, questo è il titolo dell'intervista di Rosy Bindi. Una seria riflessione sulla strategia generale va fatta. Poi Rosy Bindi, che comunque dice all'UDC: potrebbero ora constatare che il governatore uscente gode di un consenso molto ampio anche nel mondo cattolico pugliese, dunque allearsi a noi. Il tema effettivamente è questo. L'UDC ha sempre detto: se vince Vendola alle primarie, noi con Vendola non facciamo nessun tipo di alleanza. Ma Rosy Bindi dice: prendetevi una pausa di riflessione, caro Casini and Company, perché potete anche allearvi anche se il nostro candidato è Vendola. Come detto, l'esplosione del laboratorio, questo è il titolo dell'editoriale di Massimo Franco sul Corriere della Serie. È la nemesi di chi vede le primarie come la vera e unica fonte di legittimazione dei vertici del PD e insieme l'esplosione del laboratorio pugliese messo su da D'Alema e Bersani per lanciare l'alleanza con l'UDC. Questo è l'analisi di Massimo Franco, stessa analisi di Curzio Maltese su Repubblica. Usa parole anche più dure: il ciclone Vendola ha travolto tutti, da oggi il laboratorio pugliese che avrebbe dovuto lanciare il nuovo centrosinistra alleato con i centristi si rovescia nel laboratorio della crisi del PD. La festa e il dramma, evidenti da giorni, sono diventati reali alle 10 di sera, quando nel quartier generale di Vendola sono cominciate a piovere numeri come pietre sulle teste del gruppo dirigente democratico. Insomma, già stroncato sul nascere, sia per il Corriere, per Repubblica, ma insomma per tutti gli analisti, questa ipotesi di laboratorio del nuovo centrosinistra, vale a dire l'alleanza possibile con l'UDC, sarebbe già franata in Puglia. Tanto che il vincitore, vale a dire Vendola, colloquiando un po' con Fabrizio Roncone a pagina 2 del Corriere, o Roncone più che altro ne ha raccolto forse qualche frase dopo la vittoria: c'è una porta che si apre nell'ultima stanza del comitato elettorale, ho vinto, male che dovesse andare sono al 60%, è Nichi Vendola, ovviamente sono le 21:50 di ieri. Mi spiace per il PD, mi spiace molto, ma hanno fatto un errore, non hanno capito il messaggio che per settimane arrivava dalla base. Il messaggio? Gli dicevano che ero io, che era Nichi Vendola, il candidato del Partito Democratico. Nichi Vendola definito come abbastanza compassato, profilo abbastanza basso, nonostante questa vittoria. Come detto, il nostro sondaggio è su, non tanto su Brunetta come persona, cioè voglio dire, Brunetta ha detto: se divento sindaco di Venezia non lascio comunque la carica di ministro. E allora ci vogliamo chiedere, vi chiediamo nel nostro sondaggio, se secondo voi invece in caso di elezione sindaco se Brunetta invece deve dimettersi. Devo dire che per ora, e sono già più di 2000 i voti, l'84% dice sì, deve dimettersi. D'altronde, quando si toccano un po' interessi che sembrano gli interessi da casta, cioè il voler mantenere due o tre poltrone, gli italiani sono ormai abbastanza precisi. Ma ci interrogheremo sulla politica. In realtà Brunetta oggi lo trovate su tutte le prime pagine dei giornali per un'altra vicenda, vale a dire ieri è andato a Domenica Inn, ha parlato ancora dei Bamboccioni, lo ha fatto anche qua a questi microfoni la settimana scorsa, ha fatto questa proposta: come dare più soldi ai giovani per toglierli ai padri, o meglio, visto che questo è un sistema che dà ai padri e non dà ai giovani, Brunetta ha proposto questo: togliamo un po' di soldi dalle pensioni dei padri e diamo magari 500 euro al mese in più ai figli per mandarli fuori di casa. Quindi recuperiamo, intervenendo sulle pensioni d'anzianità, quelle che partono dai 55 anni. Apriti cielo, la bufera politica nel giro di pochi minuti, provocazione irresponsabile da parte dei sindacati, Bersani che dice l'esecutivo fa correre il paese dietro a palle perse. La verità è che anche lo stesso Palazzo Chigi, vale a dire il governo, ha subito preso le distanze con un comunicato dicendo è un'iniziativa personale del ministro Brunetta. Su Repubblica, Tremonti pretende la smentita. Ora basta invasione di campo. Ci sarebbe anche questo retroscena di come sarebbe nata, insomma, la reazione di Tremonti: spegnere subito l'incendio prima che diventi argomento da campagna elettorale, isolare l'incendiario Brunetta. Così scrive Repubblica Francesco Bei, con un comunicato che sarebbe stato preteso da Giulio Tremonti, il ministro dell'economia, a dire caro Berlusconi, intervieni a smentire subito. E tra l'altro dice, visto che, scrive Francesco Bei, pare Berlusconi stesse un po' esitando, allora il ministro dell'economia ha deciso di fare da solo. Prende il telefono e affronta direttamente a brutto muso il rivale, vale a dire Brunetta, perché su una materia esplosiva come le pensioni un membro del governo non può fare battute improvvisate. Dunque ci sarebbe stata anche questa telefonata. Riguardo a Brunetta sindaco, vi segnalo la pagina 5 della Stampa, perché anche il centrosinistra ieri ha fatto le primarie a Venezia per scegliere l'anti-Brunetta, quello che correrà a sindaco contro Brunetta per il centrosinistra, vale a dire Giorgio Orsoni, da ieri candidato ufficiale del centrosinistra. L'avvocato Cacciariano sarà l'anti-Brunetta, Cacciariano perché è sostenuto dal sindaco uscente Cacciari. Giorgio Orsoni, vincitore del primarie col centro-sinistra, 46%, ha già Brunetta nel mirino, eccolo lì. Venezia non può avere un sindaco da weekend. E poi Brunetta qui non è mai stato davvero amato, un personaggio un po' così, fa annunci bislacchi. Dice che vuol portare il comune a Palazzo Ducale, ma lo sa che senza Palazzo Ducale il sistema dei musei veneziani collasserebbe. Dice che vuole dare 500 euro ai Bamboccioni e il suo governo lo smentisce. Dice che farà la legge speciale per Venezia, ma a parte il fatto che io l'ho detto da mesi e lui dal governo poteva farla, perché non ha lavorato in quella direzione? Insomma, si parla di questo tema. Votate, che ne pensate? Brunetta sindaco, se sindaco deve dimettersi da ministro? Votate sul nostro sito radio24.it. C'è un altro sindaco che da giorni, l'abbiamo sentito anche in GR24 e l'abbiamo seguito qui in rassegna stampa, è davvero sulla graticola. Bologna, il sindaco del PD Del Bono, per questo Cinzia Gate, vale a dire la sua ex compagna Cinzia Cracchi, che una volta finita la storia di 7 anni ha parlato in procura di spese di vacanze, di viaggi fatti con l'allora, non era sindaco ma assessore regionale e vicepresidente della regione Del Bono, e la procura vuol vederci chiaro: soldi di chi? Soldi dei contribuenti? È solo che oggi Del Bono, che parlerà, qualcuno ipotizza anche possa fare un passo indietro, possa dimettersi. Repubblica almeno scrive su Flavio il pressing dei prodiani. Ci sarebbe stata ieri una telefonata anche, scrive Michele Smargiassi a pagina 7, una telefonata partita a casa di Romano Prodi, che è stato un grande sponsor di Flavio Del Bono durante la campagna elettorale, e oggi dovrebbe parlare appunto Del Bono. Ha annunciato una conferenza stampa, la linea del PD è il PD deve rimanere al di sopra anche dei sospetti. chi lo sfidò alle primarie dice la fiducia è finita. Insomma, il clima è questo del Bono. In arrivo nuove contestazioni, leggo dal Corriere della Sera, nel mirino le trattative con l'ex fidanzata. Cioè avrebbe incontrato Cinzia Cracchi una volta finito il rapporto. La procura vuol capire perché l'ha incontrata, le ha promesso qualcosa, le ha chiesto di stare zitta in cambio di qualcos'altro. Intanto Cinzia Cracchi, che aveva parlato un paio di giorni fa su Repubblica, oggi parla al Corriere della Sera. Calpestati 7 anni d'amore. I soldi si possono rendere, la dignità no. 7 anni d'amore, mica 7 notti. 7 anni d'amore non si calpestano in questo modo. E insomma, è Cinzia Cracchi molto delusa, amareggiata, secondo il giornalista che ha intervistato, Biagio Marsiglia, anche un po' commossa quando per esempio legge una paginetta scritta nella quale c'è scritto: i soldi si rifanno, si nascondono, si fanno vedere, ma la dignità, i sentimenti calpestati, vilipesi, con che cosa si rifanno, come si restituiscono? I soldi, pubblici o privati che siano, si possono rendere, ma la dignità di una persona come si costruisce, come si fa a farla riemergere? Credo che non andrò mai più a votare. La mia delusione è troppo forte. Rivoglio il lavoro che ho sempre fatto e che un certo potere mi ha tolto. Una Cinzia Cracchi molto arrabbiata. Ieri Flavio Del Bono, conversando su Repubblica, si è fatto anche sfuggire in certi momenti, in queste ore, in questi giorni, la odio. Allora, è un'altra vicenda di cronaca davvero triste e incredibile, quella di Favara, provincia di Agrigento, dove c'è una casa crollata, insomma ci sono state delle vittime, lo sappiamo, nel centro di Favara è crollata una palazzina, sono morte 2 sorelline di 13 anni. Il fratellino è ancora ricoverato in ospedale. Oggi dal Corriere della Sera viene fuori una vicenda incredibile. Inchiesta sulle case mai assegnate. Cioè il padre di questi bambini aveva detto: io da anni chiedevo un alloggio popolare e niente, la mia richiesta rimaneva così elusa. Ebbene, sappiate che, a parte che lui aveva fatto per 5 volte la domanda per un alloggio popolare, dal 2006 in poi senza esito, ma pensate, oggi scrive il Corriere, in 10 anni il Comune non ha mai bandito il concorso per le case popolari, che ci sono lì, sono 56 alloggi pronti all'uso, nel frattempo sono diventati catapecchie, devastate dai vandali, da abbattere e ora da ricostruire da capo. La domanda che gira nel paese è: perché? Il capo della procura di Agrigento, Renato Di Natale, ora vuol vederci chiaro, ora, non prima ma ora. Il problema è questo: non è stato fatto semplicemente nulla. Perché il comune di Favara non ha bandito il concorso per le case popolari? Perché? 10 anni, 3 campagne elettorali, sindaci di destra e sinistra, l'inerzia assoluta e drammatica ha avuto colore politico bipartisan in questo paese, in cui nessuno con 56 alloggi popolari ha pensato di fare un concorso bandire un concorso per assegnarli. Vabbè, l'Italia va anche così. Foto ricatti, Lapo inseguito dai paparazzi. Si parla di Lapo Elka in una pagina del Corriere della Sera, pagina 23. Insomma, è la nuova vicenda che promette, poi vedremo, nuovi scandali. Di certo si racconta un po' la vicenda di Lapo Elkan dopo che nel 2005 ci fu quella sua disavventura, insomma rischiò anche la vita ed era in una casa con un transessuale. Si parla delle nuove foto che sarebbero state ritirate pagando 300.000 euro proprio dallo stesso Lapo Elkan, una a Parigi con dei transessuali, una per strada a Milano mentre era con altri transessuali con la sua Ferrari gialla. Si parla un po' di tutto il sistema che c'è dietro e pensate, oggi Giuliano Ferrara nell'editoriale del lunedì tipico del Foglio lo dedica proprio a questo tema: analisi del gesto di Lapo, ovvero della nostra ipocrita sessuofobia. Il gesto di Lapo, 300.000 euro per ricomprarsi una foto con un transessuale al Bois de Boulogne, va analizzato meticolosamente. Lapo, al contrario di Marrazzo, è persona privata, non fa politica, non è pubblico ufficiale, non è stato beccato da una banda di carabinieri felloni né intimidito per disobbedienza alla scala di valori apparente alla comunità a cui appartiene. Lapo non sa cosa sia il senso del pudore, perché la sua educazione psicologica e morale, di inventore di occasioni di marketing basta che funzioni, non prevedono particolare ricura di questo dettaglio retro. E allora perché paga 300.000 euro? Una cifretta comunque, anche se si sia molto ricchi per ritirare dal mercato fotografie di quel genere. E qui Ferrara analizza un po' quello che chiama il carattere spurio della nostra sicurezza ideologica in fatto di sessualità. Si delinea in tutta la sua ipocrisia ogni volta che si tratti di transessuali. Ce l'abbiamo con la sessuofobia, che addebitiamo erroneamente alla Chiesa, al materialismo cristiano. Pretendiamo di essere pansessuofili liberati, invece ci riveliamo sessuofobi al momento buono della prova. Siamo per l'omologazione di tutti gli stili di vita di Eros, ma all'atto pratico ci ritraiamo stranamente pudichi di fronte alla loro divulgazione gossipara. I transessuali sono persone amabilissime, spesso persone molto spiritose, in alcuni casi invece disperate, socialmente svantaggiate. Ma conclude Ferrara, penso che Lapo non avrebbe mai dovuto vergognarsi di quelle foto e riscattarle, se come sembra lo abbia fatto. Invece dobbiamo vergognarci tutti della nostra meschinità, della nostra ipocrisia. Dunque, a questo tema dedica l'editoriale Giuliano Ferrara la vicenda Lapo Elkan. Andiamo a prendere il Sole 24 Ore che parla di mutui. Trovate a pagina 2-3 un'inchiesta sui mutui, fisso, variabile, la terza via costa cara. Questo è il titolo di pagina 3. La base di partenza è questa: torna a crescere la richiesta di mutui, la voglia di mutuo sembra tornata. Per vedere se torneranno ad aumentare anche le erogazioni delle banche invece bisognerà aspettare qualche mese. Questa è l'inchiesta del Sole 24 Ore del lunedì, secondo cui le principali banche italiane hanno registrato quasi il 90% di sottoscrizioni di mutui variabili, puri o atipici. Le sole eccezioni sono quelle di Intesa San Paolo e BNL. Insomma, un vademecum sui mutui sempre molto interessanti, lo trovate a pagina 2-3 del Sole 24 Ore, così come trovate sempre sul Sole 24 Ore la vicenda delle multe condonate. A pagina 6, in principio fu Roma, anche perché una norma scritta in Parlamento, soprattutto da un parlamentare che era assessore, o che è forse ancora assessore, alla città di Roma, ha reso condonabili molte multe per le quali erano arrivate cartelle pazze a Roma. Allora si è deciso, allora, paghiamole senza il sovrapprezzo, paghiamo la multa originaria anche se uno non le ha pagate per anni, in modo che facciamo una sorta di condono dell'eccesso delle penali, però almeno riscuotiamo la multa originaria. È che questa vicenda, che è partita in Parlamento e fortemente sponsorizzata da Roma, dove si stanno facendo i calcoli, sono circa 1.160.000 le persone condonabili, si è allargata nelle varie città. Multe condonate in 10 città. Sono anche altre le città dopo Roma, vale a dire Napoli, Genova, i comuni maggiori che fanno partire la sanatoria, ma anche Treviso, ci starebbe pensando, Perugia, Bari, Catanzaro, Salerno, Macerata, L'Aquila. Queste sono le 10 città per il Sole 24 Ore oggi a pagina 6 che stanno pensando di fare sull'onda di quella che è questa norma approvata per Roma, di approfittarne e anche loro condonare. Vabbè, trovate un po' di Bertolaso che dice ad Haiti situazione patetica degli aiuti, lo ha detto ieri da Lucia Annunziata. Trovate anche questa vicenda di cronaca incredibile, la vicenda di cronaca, vale a dire una lite tra un padre e un figlio per la PlayStation, con il figlio che 16enne a Torino che accoltella il padre alla gola, stavano giocando, l'uomo stacca i fili, il ragazzo si infuria. Lo trovate su tutti i giornali, tralascio le analisi sociologiche o psicologiche o psichiatriche del caso. Insomma, un caso di cronaca, poi andare a capire, seduti comodi in una poltrona da psichiatra, il perché ha scatenato questo ragazzo, è un po' un esercizio che mi lascia sempre perplesso. Sprechificio Rai, 150 milioni di passivo e dozzine di direttori e manager parcheggiati. Lo leggo dal Messaggero, e secondo me è una notizia così, un po' sottovalutata, ma che voglio leggere. A pagina 4, in Rai è l'ora della crisi, si parla di un bilancio passivo che chiuderà 150 milioni di euro, la Corte dei Conti indaga, soprattutto sui direttori a spasso. Non mancano i nomi illustri, Paolo Ruffini, che è stato tolto dal TG3, senza nuovo incarico anche Claudio Cappon, direttore generale. In altre aziende i super manager sono licenziabili, mentre in Rai ogni nomina direttore è di fatto e di diritto a vita. Piero Badaloni, Poi le super liquidazioni che fanno anche qui storce il naso a qualcuno. Angela Buttiglione e Marcello Del Bosco andranno in pensione con una liquidazione di 1,5 milioni di euro complessivamente, un po' meno di uno a lei, molto più di mezzo a lui. Insomma, sprechificio Rai, a pagina 4 del Messaggero, tutta un'analisi di quello che sono i conti della Rai. Chiudo con una segnalazione. Vabbè, trovate la coppia che scoppia, Brad e Angelina Jolie, un po' ovunque, alla conta dei soldi, sulla stampa, accordo migliorario tra Pitt e la Jolie, si sfascia la coppia da 280 milioni di euro, ma c'è un po' ovunque. Jolie e Pitt al capolinea, a rischio la coppia più bella. Pare davvero che sia finita. Oh, a tutti quegli spiritosoni che mi scrivono di calcio, perché non ironizzi sul Milan? Eccola qua la prima pagina della Gazzetta che vorrei stracciare oggi, ma non per la Gazzetta, bel giornale. Inter 10 e gode. C'è Milito che esulta dopo il primo gol di una partita che non ricordo, che dovrebbe essersi svolta ieri sera. Derby spettacolo. Ah, c'è stato il derby, ecco, così mi dicono. Derby spettacolo. Anche Peter, il nostro tecnico, è affranto. Oggi ci guardiamo e, insomma, occhi bassi. I nerazzurri a più 9 sul Milan, ma il Milan deve recuperare una partita. Peter Bescapè, dai, tiriamoci su così. Insomma, il derby è andato all'Inter, che ha giocato meglio e ha meritato.